la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buongiorno e ben ritrovati alla prima volta. L'ospite di oggi è la signora Giannina Calissano. Allora, buongiorno signora Calissano. Buongiorno, buongiorno. Lei ha 47 anni, è romana, è mamma, in particolare mamma di una bambina che poi quasi tutti quanti noi abbiamo avuto modo di conoscere, Stella. Stella aveva 9 anni, è stata uccisa in un incidente automobilistico provocato da un giovane sotto effetto di alcol e droga. Allora, è inutile dire che la prima volta sua e della sua famiglia inizia proprio in quell'esatto istante in cui è avvenuto questo incidente, perché almeno leggendo, ascoltando anche le interviste che ha rilasciato, la sensazione era che voi foste a un bivio, no? Da una parte potevate chiudervi in un dolore cieco, sordo, anche pieno d'odio, di vendetta, o al contrario fare un passo in avanti. Ecco, e quello che ha colpito me, ma che ha colpito credo tutti, è stato proprio il fatto che lei, signora Calissano, ma suo marito, anche proprio l'intera sua famiglia, siate stati capaci di trasformare questo dolore tremendo in qualcosa che poi potesse essere utile per tutti noi. Ecco, ad esempio attraverso la piattaforma change.org lei si è messa a raccogliere firme per ottenere il riconoscimento del reato di omicidio stradale. Allora io partirei proprio da qui. Come sta andando la raccolta firme? Guardi, per fortuna o purtroppo, non lo so, dipende dai punti di vista, sia io che i miei amici di Change.org abbiamo sensibilizzato un po' di più le persone e stanno in continuazione si aggiungono altre firme alle nostre richieste. E stiamo raggiungendo una bella quota, infatti penso che a breve mi dovrò di nuovo rivedere con i relatori della legge per vedere a che punto siamo, perché le promesse sono state fatte a dicembre, siamo ormai a marzo e mi era stato detto che insomma l'iter stava procedendo. Ora dovremo vederci a breve per vedere a che punto è la situazione. Le firme sono tante, sono tantissime, sono più di 150.000. Voi, lei perché ha deciso di intraprendere questo cammino anche di combattimento? Allora, io ho deciso di intraprendere questa cosa perché è una delle molle che mi danno, diciamo così, una ragione di fare giustizia a mia figlia, visto che purtroppo fino adesso la giustizia per lei non c'è stata. Il processo è un punto fermo, sto ragazzo è irreperibile, non si sa che fine ha fatto, e quantomeno cercare di, attraverso le nostre petizioni, attraverso il prendersi in contatto anche con altri genitori, altre vittime come me, come mio marito, di cercare di fare in modo che cose del genere siano sempre più difficili, che si possano ripetere, ecco. E questa è una delle mie battaglie che mi danno uno scopo in memoria di Stella. Lei ha detto che ha fatto questo anche, io ho ascoltato delle dichiarazioni che ha rilasciato e mi ha colpito molto la bellezza, anche la profondità del fatto che lei dice: io faccio questo anche per dimostrare ai miei figli che la giustizia esiste, che si può ottenere giustizia. Sì, purtroppo la battaglia che sto conducendo è anche per mia figlia selvaggia, perché un domani non voglio assolutamente che lei pensi che non mi sono abbattuta per la sorella o per lei. E purtroppo le sto insegnando che per poter esercitare un proprio diritto spesso e volentieri bisogna farsi forza e far emergere una voce, però diciamo così che questo non è poco, se pensiamo ad altre brutte situazioni dove ci sono tante persone che voci non ne hanno, e quindi io faccio la mia voce e la voce di anche quelli che non ce l'hanno. Perché adesso vorrei anche magari riepilogare per chi non ha seguito l'evoluzione di questa storia. La persona che era la guida dell'auto che vi ha colpiti è stata posta agli arresti domiciliari e ora è scomparso, è fuggito, no? Chissà, chissà dove. Sì, purtroppo nelle pieghe della legge è successo che questa persona gli è stato servito su un piatto d'argento, non volendo ovviamente, perché non credo che nessuno abbia avuto il pensiero soltanto di farlo scappare, però di fatto è questo è successo, poiché gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, poiché gli è stata data la possibilità di chiedere un patteggiamento e quindi nella spesa di questo patteggiamento era gli arresti domiciliari lontano da Roma, in un posto dove forse le forze dell'ordine non sono in grado di poter fare tutti i controlli che si fanno invece qui a Roma quando una persona ha gli arresti domiciliari. E avendogli consentito di recarsi ogni volta che deve venire al tribunale di Latina e di venire con i mezzi propri, probabilmente questa persona ha accolto questa, diciamo così, leggerezza, questa incapacità di controllarlo, invece di venire al tribunale a fare quello che doveva fare, cioè l'imputato. E andare via e non sappiamo dove sta. Fino adesso non abbiamo notizie e neanche il nostro avvocato ci ha saputo dare ragione di quello che dove sta. Di fatto è che non è venuto al processo. Cioè, voi come avete scoperto questa cosa? Ve l'hanno comunicata il giorno del processo? Il 26 gennaio si apriva il rito ordinario perché dopo 2 volte di rigetto del patteggiamento. Il giudice ha deciso di procedere col rito ordinario, quindi si doveva aprire il rito il 26 gennaio. Il 26 gennaio questo signore che fino ad allora aveva la possibilità di venire con i propri mezzi, quindi anziché venire a Latina è andato, boh, non si sa dove. Non si è presentato, il suo avvocato non ha avuto nessuna notizia. E quindi il giudice ha disposto di riconvocarlo un'altra volta per il 2 luglio, sperando che per quella data questo signore si ravveda e che si presenti, ma diciamo così che le speranze non sono tante, non so se lo stanno cercando, penso che lo staranno cercando, se ci sarà un mandato a livello internazionale, se questo è ritornato, non sappiamo assolutamente niente. Ma nessuno vi comunica, cioè a No, livello istituzionale, nessuno vi dà delle informazioni in no, questi no, casi? no, nessuno ci ha detto niente. C'è stata un'interrogazione parlamentare, però non ho saputo niente, assolutamente niente. E può darsi pure che sia giusto così, che io non sappia niente. Forse c'è qualcosa che si sta muovendo, ma a me non è dato sapere. Non lo so. Comunque, questo non è che mi cambia un granché. Certo. Purtroppo Stella non c'è più. L'unica cosa che posso fare è continuare la mia battaglia per fare in modo che questa legge sull'omicidio stradale ci sia, perché anche questo sarà, spero, un deterrente per fare in modo che non succedano queste cose. Cioè, che non si dia tanto facilmente l'arresto domiciliare a qualcuno che forse era quasi una cosa naturale che scappasse. Senta, anche durante queste ultime frasi, no, che ha detto, la sensazione che a me tocca veramente molto, che è la sensazione che ho avuto la prima volta anche che l'ho sentita, è proprio la sua fede incrollabile nei confronti della giustizia. E proprio per questa fede lei sta continuando in qualche modo a combattere, no? Perché le cose migliorino. Lei, tra le altre cose, in qualche modo in questo percorso c'è una linearità, nel senso anche del suo ruolo di madre, perché a un certo punto lei ha rilasciato delle dichiarazioni parlando direttamente alla mamma del ragazzo che ha investito voi e che poi è fuggito, e dicendo tra l'altro che era dispiaciuta, no, per lei, perché qua c'è anche tutto un discorso di ruoli sociali, di responsabilità che si prendono. Ah, certo, sicuramente questa signora ora non so se per motivi logistici, culturali, boh, ma come madre io mi sento da dire che lei ha fallito come mamma, che lei non ha saputo dare un'educazione al rispetto delle regole, che è cosa che invece io cerco in tutti i modi di fare con mia figlia. E anche se lei sa perfettamente tutte le brutte vicende che ci sono, l'unica cosa che le ripeto in continuazione è tu devi rispettare le regole sono fatte perché solo così, e questo è un modo civile di vivere, e la giustizia prima o poi ci sarà, ci deve essere per forza, perché non ci posso credere che va a finire così, ecco. Pure per lei, per il suo futuro, lei deve credere nella giustizia, io credo nella giustizia anche per lei. Assolutamente. La prima volta. Ben ritrovati alla prima volta, siamo in compagnia di Giannina Calissano. La storia che stiamo raccontando è la storia di una famiglia che è stata colpita, devastata il 26 dicembre di 2 anni fa da un incidente automobilistico nel quale è morta una bambina, Stella, di 9 anni. Signora Calissano, chi vi venne addosso con la sua auto era un ragazzo ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti. Quell'uomo che era stato posto agli arresti domiciliari oggi è in fuga chissà dove. Quello che le volevo chiedere è le istituzioni come hanno reagito a questa notizia e che tipo di sostegno vi hanno dato o vi stanno dando? Purtroppo di sostegno ce n'ho zero da parte delle istituzioni. Ho il sostegno di tutti gli amici, di tutte le persone che mi conoscono, maestre, gente del quartiere, colleghi, ma le istituzioni ad oggi non mi hanno neanche fatto sapere niente. Io ho mandato delle mail, ma non ho avuto risposte, quindi boh, non so proprio che pensare. L'unica cosa che posso dire è che probabilmente nessuno mi può dare delle risposte, quindi non mi contattano per questo. Senta, lei ha detto anche che dopo questo gravissimo lutto, dopo questo dolore profondo, la cosa che in qualche modo l'ha aiutata di più è stato lo stare insieme, tornare al lavoro, i colleghi. Assolutamente, la cosa più brutta che ci possa essere è isolarsi. E la tendenza è quella di chiudersi nel proprio dolore e di, diciamo così, cullarsi tra di noi questo non fa altro che alimentare il dolore al dolore, e poi non è giusto per i confronti di Selvaggia, che è una bambina che ha tutto il diritto di vivere, e noi dobbiamo vivere un po' per lei e un po' anche per noi stessi, perché se soccombiamo abbiamo dato vinta alla morte, e Stella non lo merita assolutamente. Le volevo chiedere anche, cioè, se si ricorda il momento esatto in cui ha deciso di rivolgersi a change.org per far partire questa petizione che, come ribadiamo, si sta battendo per ottenere il riconoscimento del reato di omicidio stradale. Allora, mi sono rivolta a loro in un momento di grande sconforto, quando ho realizzato che questo signore, ed è eufemismo chiamarlo così, vabbè, che il mio imputato aveva richiesto diciamo, il patteggiamento, che gli avrebbero probabilmente accolto con pochi anni, non avrebbe fatto neanche un giorno di galera, e che era già agli arresti domiciliari quando io credevo che fosse già in galera e quindi ho dovuto in corso d'opera cambiare legale e siccome il nuovo legale mi ha messo al corrente di brutte notizie, nel senso che probabilmente sarebbe stato accolto questo patteggiamento, ho cominciato a contattare i miei amici nella rete, a fare una sorta di tantam mediatico e a una mia amica è venuto in mente di contattare questi amici di change.org per fare la petizione e per dare risonanza a questa grande ingiustizia. E devo dire che mi è stato di tanto aiuto, proprio tanto, tanto, tanto, sia a livello personale che a livello proprio di quello che è uno dei miei scopi, cioè quello di avere una giustizia e cercare di fare in modo che non succeda più quello che è successo a noi e purtroppo a tanti altri dopo di me. Perché sono tante le persone che sono in contatto con lei che le raccontano storie simili. Sì, ne abbiamo parecchie. Siamo in contatto sia su Facebook che ogni tanto ci si vede proprio e sì, siamo andati anche dal Papa, abbiamo fatto una specie di flash mob a Montecitorio a novembre e sì, siamo un bel po' di persone, ecco, sì. E questo ritrovarsi e scambiarsi delle notizie, fa bene perché uno così esce fuori dall'isolamento, anche se ogni volta è riaprire una ferita, ma è giusto che a volte il dolore serve per la spinta di andare avanti. Senta, signor Calissano, un'altra cosa che mi ha molto colpito della sua storia è la scelta sua e di suo marito di donare gli organi di Stella. Anche questo è un gesto di grandissima civiltà e di profonda generosità. So anche che siete rimasti in contatto con la famiglia del bambino che ha ricevuto gli organi. Sì, io la bambina che ha ricevuto il cuore di Stella la conosco personalmente, siamo stati da lei, lei è stata da noi, insomma ci sentiamo regolarmente. Poi ho saputo di altre 2 o 3 persone che stanno molto meglio e per me è una grande consolazione sapere che l'essere di Stella è perduto, che qualcuno vive grazie a lei e che lei in qualche modo, in modo diverso, è sempre qui con noi. Senta, un'ultima domanda che le volevo fare è cosa si aspetta lei dal futuro? Mi aspetto di veder crescere mia figlia, selvaggia. Mi aspetto di vedere finalmente questa legge, che sia una legge che sia reale, ecco. E mi aspetto che la mia vita vada avanti, diciamo, nel miglior modo possibile, insomma. Prima volta termina qua. Vi ringrazio per essere stati con noi. Seguiteci sulla pagina, di Radio 24, lì trovate tutti gli indirizzi per seguirci su Facebook, la nostra email. Ci potete risentire anche in podcast. L'appuntamento è sempre di domenica, sempre alle 13:30. Che dire, buona domenica a tutti, da Cristina Carpinelli. Estasi nell'immensità, dove tu mi stai aspettando adesso, dentro una vertigine che danza e ci porta al di là del tempo. vicino a ritornare sulle labbra. L'incanto è lo stesso, perché niente è cambiato, anche se tutto è diverso.